Dei nostri ospiti che sono stati chiamati, coinvolti da Adel Jabbar, sociologo che presta anche una grande opera di promozione di certe tematiche presso la biblioteca provinciale. Infatti organizziamo spesso delle conferenze, i temi sono sempre accattivanti e di grande attualità e ci aiutano proprio anche a costruire dei percorsi di lettura per i nostri utenti. Ringrazio Mauro Cereghini che è qui con noi, ringrazio anche Michele Nardelli, sono gli autori appunto di questo libro, il cui titolo è Sicurezza. Se potessimo fare una hit parade delle parole più usate, sicurezza probabilmente vincerebbe anche questa volta il primato, e in effetti accanto a una grande libertà e una possibilità di movimento, di comunicazione incredibili, forse mai conosciute fino ad oggi, lo scotto è quello poi di dover garantire una sicurezza, e questo è già un altro tema che affronteremo questa sera con i nostri ospiti. Così una piccola riflessione: si pensava come in questi 20 anni di lavoro anche nella pubblica amministrazione la sicurezza è sempre diventato un tema sempre più importante, per esempio nella tutela della privacy. No, man mano che andiamo avanti ci fotografiamo, comunichiamo, twittiamo e facciamo, ma poi dobbiamo stare attenti a garantire una sicurezza dei dati e una certa privacy con delle misure che sono anche particolarmente complicate, complesse e continuano a cambiare. E quindi la sicurezza coinvolge tutti, è un tema che può essere anche di grande ambivalenza, diciamo così, usiamo questo termine, no? Ecco, lascio però la parola ai nostri ospiti e vi ringrazio. Ricordo che la biblioteca ha sempre così come compito quello di promuovere delle letture, abbiamo qui messo a disposizione alcuni libri, ma chiaramente poi ne abbiamo tantissimi altri. Vi ricordo poi che organizziamo ogni settimana, tranne questo giovedì, ma a partire dalla prossima settimana, giovedì pomeriggio dalle 16 alle 17, un corso per imparare ad usare in sicurezza il biblioweb, quindi scaricare libri, riviste e quant'altro in maniera così anche gratuita. E infine vi ricordo il prossimo appuntamento, che è quello di lunedì 11 marzo con Il Bracconiere, un romanzo scritto da Valentina Musmeci e con la collaborazione, diciamo, per quella serata di Franco Faggiano. Infine la biblioteca il 21 marzo celebra la giornata mondiale della poesia. Quest'anno vogliamo fare qualcosa di particolarmente diverso e cioè organizziamo un poetry slam, cioè un agone, diciamo, dei componimenti poetici, quindi chiunque abbia scritto una poesia, non importa in che lingua, perché è aperto a tutti, può partecipare lasciando il proprio nominativo alla biblioteca e così partecipare a questo evento con un proprio contributo in termini poetici. Questa è la parte più ludica degli inviti. Vi ringrazio ancora di aver accolto il nostro invito, di essere qui con noi e di farci conoscere un nuovo aspetto della nostra realtà. Grazie. Grazie alla dottoressa Trevisan, che è sempre pronta a recepire proposte, idee e iniziative, quindi svolge un lavoro di ascolto importante rispetto ai cambiamenti che avvengono nella realtà di oggi. E quindi anche presentare un libro come questo qua, con il titolo Sicurezza, fa parte, come diceva aveva già anticipato la dottoressa Trevisan, è una parola ormai presente nel linguaggio della pubblica amministrazione, ma anche in molti altri luoghi. Abbiamo in mano un libro di 100 pagine scritto da Mauro Cereghini sulla mia sinistra e Michele Nardelli sulla mia destra. Mauro, presento un attimo le persone che magari per molti di voi sono abbastanza note. Mauro Cereghini è un ricercatore, formatore sui temi della pace, della mediazione e della cooperazione internazionale. È stata presidente del Centro per la Formazione e la Solidarietà Internazionale di Trento e ha diretto l'Osservatorio Balcani a Caucaso. Attualmente lavora come operatore culturale a Milano. Nardella invece, saggista e ricercatore sui temi della pace, è stata consigliera regionale del Trentino Alto Adige e sul Tirolo, è presidente del Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani, ex presidente, e studioso dell'Europa di mezzo, e nel 99 ha fondato l'Osservatorio Balcani e Caucaso, dove ha lavorato Cerghini, impegnato per anni nella cooperazione internazionale. E potrei aggiungere che comunque ha seguito e segue ancora il conflitto nell'ex Jugoslavia e la conseguenza del conflitto, impegnato per anni quindi nell'ambito della cooperazione internazionale, autore con Mauro Cerghini di Darsi il tempo, il libro precedente, Idee pratiche per un'altra cooperazione internazionale. Quindi sono temi che entrambi da tantissimi anni frequentano e trattano. Per cui siamo, come si dice, in mani sicure su questo tema qua. Si posso dire a cosa fare questa pubblicità dovrebbe essere? Dunque, il progresso è un concetto è criticato nel libro, ho capito. Bene, il libro in qualche modo rappresenta una ricerca in atto. Gli stessi autori dichiarano questo intento nella pagina 84, e credo che poi è stata la genesi di questo libro, la necessità o l'esigenza di dare alla parola sicurezza il significato di ricerca. A me è piaciuto proprio questo passaggio, quindi una ricerca che richiede fantasia e innovazione verso una forma di convivenza che generino fiducia reciproca. Questa ricerca i nostri due autori l'hanno collocata all'interno di un quadro molto ampio, quindi partendo da questa parola chiave sicurezza, i nostri autori hanno avuto effettivamente la fantasia e la capacità innovativa di trattare il tema collocandolo all'interno di quella che viene chiamata l'ordine internazionale attuale, in cui non c'è più posto per i diritti universali né per la forma di organizzazione e tutela dei diritti. Quindi sono venuti meno anche quelle che organizzazioni intermedie fondamentalmente che interloquiscono tra i cittadini e le istituzioni, o magari sono indebolite. Quindi all'interno di questo ordine c'è un'onda che investe le nostre stesse esistenze, creando incertezze verso il presente e paure del futuro. Il mercato globale e il sistema dell'informazione giocano sulla paura, sia quella indotta da pericoli reali, sia da quella che Zygmunt Bauman chiama paura derivata, come i fondi derivati fanno il brutto fine. Quindi, quindi una paura che anestetizza i sensi e logora la mente. Perché indipendentemente dalla presenza immediata o meno di una minaccia, orienta il comportamento dell'essere umano dopo aver modificato la sua percezione del mondo e le aspettative che ne guidano le scelte. Finisco la mia introduzione, vi siete già stufati? No, io devo prendere la vostra sicurezza. Bene, e prendere in considerazione. E quindi questa onda, seguite la ricerca, la sicurezza come ricerca all'interno di un ordine mondiale nello quale c'è questa onda che ha scaraventato molti dei luoghi che garantivano certe certezze alle persone. Dunque all'interno di questa onda cosa fa? Ha fatto finire la cultura dell'ideologia, la crisi di corpi intermedi, i processi di atomizzazione sociale e spaesamento, la crisi di credibilità delle istituzioni e la fragilità dello stesso istituto della famiglia hanno demolito la certezza novecentesca, lasciando le persone sempre più sole. È davvero paradossale come nel tempo dell'interdipendenza e della connessione permanente il senso diffuso di solitudine porti ciascuno a rifugiarsi nel proprio microcosmo, rivendicandone il primato. Anche così si alimenta rancore e paura, quindi insicurezza. Torno quindi, perché sono partito una delle ultime pagine verso l'inizio, però mi sembra che il centro del libro, in termini proprio fisici, e anche il centro, secondo me, così senza dover trasgredire i limiti di un moderatore, il centro del libro è proprio un triangolo che io chiamo il triangolo della paura, composto da tre parole chiave: ansia, rancore e solitudine. E quindi io intorno a questo, quando siamo arrivati al centro del libro, mi sono interrogato, perché c'è una descrizione molto interessante, sono pagine centrali, ma secondo me rappresentano una descrizione molto incisiva per leggere la paura all'interno di questo quadro molto così allargato da un certo punto di vista, perché i nostri due autori sono riusciti effettivamente a ancorare la parola sicurezza ad una dimensione globale. Per cui io a questo punto non so, Mauro, vuoi iniziare tu a trattare il triangolo? Chi è responsabile del triangolo? Ansia, rancore, solitudine. Non ci ricordiamo. Quindi a questo punto qua, Mauro, va bene. Ancora il stesso nome. Grazie mille Aden per l'introduzione e grazie per l'invito alla biblioteca. Sì, in effetti intanto è molto bello vedere un libro così sottolineato, così, perché sbirciavo nelle pagine di Adel, e fa piacere, perché appunto il motivo per cui abbiamo provato a scrivere questo saggio breve, anche se Don Renner a suo tempo, quando l'abbiamo presentato un'altra volta, ha detto che forse è un tomo travestito da libretto, perché abbiamo in realtà trattato tante cose al suo interno. E l'abbiamo fatto soprattutto per l'idea, poi per la volontà di fare anche gli incontri, i dibattiti e incontrarci e discuterne su questo tema. Solo una premessa e poi vado al triangolo, perché la premessa ci tenevo a farla. Abbiamo scelto di affrontare il tema sicurezza perché trovavamo che da un lato piuttosto strumentalizzato, è molto evocato, è molto cavalcato, e da un altro lato, in termini chiaramente, dandogli però un'accezione precisa, un'accezione di chiusura, un'accezione di bisogno di muri, di barriere, di negazione. Oppure dall'altro lato è un concetto, è un termine, è una problematica o sottovalutata o comunque non considerata come pregnante. È una questione di percezione, e siccome la sicurezza è un problema percepito, è come dire non è importante. Quando in realtà la percezione crea la realtà, quindi è invece il tema della nostra società oggi. Tant'è che la prima proposta che ci avevano fatto era di un altro titolo e di un altro tema, pace, e abbiamo deciso invece che forse era più pregnante in questo momento affrontare sicurezza. E appunto abbiamo probabilmente pensato che sia lo specchio dell'oggi, lo specchio della contemporaneità, e appunto dietro quella parola in realtà ci sia una triade di elementi che parlano di noi, non parlano di un assalto altrui, non parlano di minacce esterne, ma se c'è questa questo sovraccarico sul concetto, sulla richiesta, sulla domanda di sicurezza, è probabilmente perché allo specchio c'è un sovraccarico di problematiche nostre, e sono appunto, abbiamo provato a condensarle in questa triade: l'ansia da precarietà, e tutte e tre fotografano un passaggio, che è il passaggio che è la fine del Novecento sostanzialmente, per cui appunto una fine di un mondo sicuro, di un mondo dove il lavoro era dall'inizio alla fine della mia vita, e non le precarietà dei lavori attuali, un'ansia data da mutamenti molto veloci, un appiattimento sul presente, la virtualità che è diventata ormai una parte di mondo e che però ha un sovraccarico d'ansia, perché mi porta in casa, mi porta in mano sul telefonino tutta tutto un carico di ansiogenicità, perché qualsiasi evento in giro per il mondo è come mi fosse successo sotto casa, e quindi io non voglio la moschea perché hanno tagliato la testa da qualche parte del mondo a qualcuno, cosa naturalmente negativissima, ma l'abbinamento me lo dà questa cosa virtuale, perché io lo vedo sul telefonino anche se non è accaduto, non sta accadendo. Quindi l'ansia in questa dimensione, il rancore che viene da una crescita esponenziale delle disuguaglianze, non c'è più nemmeno il mito, non c'è più nemmeno la speranza dell'uguaglianza, è finito quel secolo, che poteva essere appunto il mito del stiamo tutti bene insieme in ottica capitalista, oppure il mito del socialismo finito in tragedia, ma comunque era l'idea dello stiamo bene tutti insieme, era un welfare, ok, che è finita quell'epoca lì, ce ne rendiamo conto, e tutti i dati ci dicono appunto che invece andiamo verso, in tutte le società, all'interno e a livello di rapporto tra le società, ma anche dentro le società, è ormai in... E chi non ha... non si organizza più nemmeno per avere, ma semplicemente è arrabbiata perché non ha, e il mito è avere. Era sempre Don Renner che quando vuole, questa volta lui è stato solo la causa, è stato diciamo, lui ha prodotto un fatto molto però interessante e significativo. Alla prima presentazione del libro che abbiamo fatto, Pilota, quest'estate, parlando appunto di questo tema e delle disuguaglianze, eravamo in un quartiere periferico, quindi erano entrati anche dei ragazzetti che stavano giocando di fuori, quindi 16 anni, 17 anni, e lui si è rivolto a loro proprio perché era anche incuriosito da questa presenza, diceva: ma vi rendete conto, erano i giorni dell'acquisto di Ronaldo quest'estate, se ricordate, ma vi rendete conto che questo tizio guadagna in un mese quello che voi vi sognate di guadagnare nella vostra vita? Magari, adesso non so fare i conti. E la risposta dei ragazzi è stata: se lo merita. E questo è appunto è emblematico, no? Non c'è più la rivendicazione di, ma c'è il mito e al massimo il rancore, perché io non ci arriverò, ma sono arrabbiato, però io vorrei quello, non l'uguaglianza. Per cui appunto il rancore. E la terza parola, la smetto se no poi vado lungo, è la solitudine esistenziale, perché appunto siamo sempre più soli per quanto connessi, siamo soli perché le famiglie sono sempre più sempre più singoli, sempre più spezzate, ma siamo soli anche a livello di pensiero, perché i luoghi dei pensieri sono sempre più aridi e non ci sono più, okay. E quindi davanti ai cambiamenti ci troviamo soli davanti alle migrazioni, che sono un fenomeno reale della nostra contemporaneità, ma se non c'è un accompagnamento, allora la risposta è la cacciata. Per cui, ecco, prendere sul serio la parola sicurezza, però scavarci dentro, perché non è semplicemente qualcuno che ci aggredisce da fuori. Grazie Mauro, grazie. E passo, c'è il microfono? No, specifico, è il stesso triangolo, guardandolo da un'altra parte. No, effettivamente sono appassionato del triangolo, perché una volta in un convegno universitario mi hanno chiesto di fare un intervento, e tutti, sto parlando veramente tantissimi anni fa, e molti studiosi erano, sono filosofi, psichiatri, antropologi, gente che è più avanti nell'età, insomma, io mi sono trovato di voler dire qualcosa di nuovo, però non avevo tutti gli strumenti loro, quindi leggendo un libro sul tema degli immigrati italiani in Germania, mi sono imbattuto in una figura di un personaggio, zio Pietro, e che il suo racconto mi ha dato l'idea di disegnare il profilo dell'immigrato all'interno di un triangolo. Perché il triangolo? Perché l'ho preso dalle indicazioni stradali, no? Il pericolo di stare attento. Quindi, e io ho costruito, quindi ogni volta che mi capita l'occasione di produrre in qualche modo il triangolo, quindi anche questa volta qua il vostro libro mi ha dato questa occasione, che anche subito ha permesso di disegnarlo poi su un grafico, e vi citerò però, no? Mettendo questo, no, davvero che è interessante questa pagina, mi hanno affascinato molto. Per questo insisto, la domanda è la stessa, cioè, questa ricerca è approdato a definire questi. Tra questi tre termini che mi sembrano molto impegnativi, e che voi avete scomodato Hannah Arendt, avete scomodato Freud, avete insomma. Beh, è importante affrontare il tema delle parole e del significato delle parole, nel senso che quando ci hanno proposto, appunto lo accennava Mauro, ma voglio riprenderlo, quando ci hanno proposto di scrivere questo libro, il responsabile dell'edizione del Messaggero, che è un francescano, amico peraltro, appunto, che avevo conosciuto in occasione di molti incontri in Val di Non, si propose appunto di scrivere un libricino dentro questa collana che si intitola Parole allo specchio, no? Ed è interessante il fatto che oggi si prendano in mano le parole per capire che significato appunto assumono, a seconda appunto di come vengono declinate, che, sì, no? A seconda di chi le pronuncia e cosa possono contenere. E quindi quando abbiamo controproposto l'idea di sicurezza, avevamo esattamente questo desiderio, quello di prendere in mano questa parola e provare a declinarla in maniera diversa rispetto a quello che normalmente viene fatto. Pensate al tema della sicurezza, come nella storia dell'Ottocento e del Novecento era sinonimo di sicurezza del lavoro, sicurezza sociale, era un concetto che aveva a che fare con le istanze di trasformazione, di cambiamento, in positivo, non c'era quella della paura dentro questa parola. E oggi invece, voglio dire, appunto, ha assunto un significato che è quasi l'opposto di quello che tradizionalmente potrebbe o ha rappresentato, potrebbe ancora rappresentare. E quindi prendere in mano le parole ha davvero questo significato profondo di non esorcizzare le cose. Insomma, quando dicevo prima, appunto parlando con la signora, quando una persona ha paura non puoi rispondergli guarda che si stai sbagliando, perché se è vero che la paura può essere reale o irrazionale, ma la percezione che se ne ha è comunque questa. E se uno ha paura non puoi dire guarda ti stai sbagliando, paura. E allora il problema è proprio di prendere per mano le persone e provare a dire, cerchiamo appunto di dare una declinazione diversa, in questo caso l'idea del prendersi cura. E quindi abbiamo provato a triangolare appunto questa cosa. Quando tu dicevi ansia, rancore e solitudine, che sono tre concetti che lì vengono sviluppati, dentro di me è scattato immediatamente questo nostro pezzo di vita, di storia, che riguarda appunto la conoscenza dell'Europa di mezzo, i Balcani, laddove abbiamo avuto in qualche modo già 25 anni fa o 30 anni fa, no? Il manifestarsi di un fenomeno che, se noi avessimo saputo leggere per tempo, ci avrebbe potuto in qualche modo aiutare a stare dentro il nostro tempo in maniera. E le tre parole che mi vengono in mente non sono semplicemente ansia, rancore, solitudine, anche se una coincide, ma sono umori, rancore, progetto politico. Nella frequentazione balcanica viene fuori spesso, almeno voglio dire dei miei ragionamenti, insomma, ma che abbiamo fatto spesso anche con Mauro, il concetto di Krčma. La Krčma è la locanda balcanica, la balcanska Krčma. Se volete capire qualcosa di ciò che è accaduto nel cuore dell'Europa nel corso degli anni 90, dovete prendere in considerazione questo concetto, la locanda. Perché la locanda è il luogo in cui gli umori diventano rancore e il rancore diventa progetto politico. Ma se ci pensate bene, questo, voglio dire, ha a che fare non con la locanda nelle strade polverose dell'Europa centrale, ma ha a che fare con la nostra, le nostre periferie. I luoghi appunto dove le persone si trovano sempre più sole, magari dopo una vita di lavoro dove non hanno in mano più niente. No? E quindi il rancore nei confronti dell'altro visto immediatamente come qualcosa che impatta sulla tua esistenza. Ora, ragioniamo di questo, insomma, ragioniamo del fatto che non considerare gli umori, il rancore, diventa poi, voglio dire, l'effetto che abbiamo conosciuto in questi ultimi anni, insomma. No, qualcosa che viene appunto giocato contro il futuro, il prima noi. Ma anche lì, il valore delle parole, insomma. Cosa vuol dire cosa vuol dire affermare prima gli italiani o prima noi, se non Deutschland über alles? No? O American First. Vedete come queste parole, voglio dire, si continuano, perché poi questa cosa ha a che fare con il nostro tempo, perché non si può appunto esorcizzare la paura, perché oggi ci sono ottimi motivi per essere preoccupati del futuro. Insomma, noi abbiamo una commissione delle Nazioni Unite che si occupa del clima sulla faccia della Terra e ci dice: guardate signori, che avete 15 anni per evitare l'aumento della temperatura del pianeta di 1,5 gradi, oltre la quale si innescano meccanismi di tipo irreversibile. Questa commissione non è fatta da estremisti, ambientalisti, eccetera, sono gli scienziati, le persone che vengono indicate dal sistema degli stati, appunto delle Nazioni Unite. Questi ti dicono 15 anni, 10 forse. Di fronte a una cosa del genere uno dovrebbe in qualche modo immediatamente interrogarsi e dire: ma 10-15 anni non sono un'era geologica, perché un tempo i cambiamenti avvenivano attraverso ere geologiche, insomma, invece sono un pezzetto grande così della tua esistenza, qualcosa che ha a che fare con appunto il tuo modo di essere. E quindi tu sei immediatamente chiamato ad essere responsabile di quello che accadrà nel corso di questi 15 anni e quello che potrà accadere alle generazioni a venire. E allora? Questa cosa sta cambiando qualcosa nel modo di vivere delle persone? Non mi pare. Abbiamo avuto, non più tardi di 4 mesi fa, un tornado che si è infilato dentro le valli dolomitiche e ha spazzato via qualcosa come 14 milioni di alberi. Non piantine. C'erano alberi abeti che avevano 300 anni di vita, insomma, quindi vuol dire che per 300 anni un fenomeno del genere non c'era stato, quindi un fatto assolutamente inedito. Mi è capitato di andare a fare uno dei miei viaggi, io sto facendo una cosa che si chiama viaggio nella solitudine della politica, che è da 2 anni che sto compiendo in varie parti dell'Italia, dell'Europa e del Mediterraneo, e uno di questi viaggi l'ho dedicato proprio agli effetti del cambiamento climatico. C'è da piangere nel vedere appunto questi milioni di alberi abbattuti, perché abbiamo a che fare con un fatto letteralmente inedito, rispetto al quale non c'è sapere, non c'è letteratura, e quindi è difficile anche da affrontare anche dalle persone più esperte. Oltretutto è avvenuto, voglio dire, in maniera così complicata, per cui appena tu tocchi un albero ne scattano altri tre, e quindi anche molto pericoloso metterci mano, quindi è davvero complicato. Qualche giorno fa, parlando con una persona di Bolzano, gli ho chiesto come è avvertita questa cosa in Alto Adige, sul Tirolo, del tornado appunto che ha devastato in particolare la zona di Carezza. Se ne parla poco, mi ha risposto. Nessuno ci ha fatto grandi ragionamenti su questa cosa. Se non ci siete andati, andate nella zona di Carezza, perché è davvero pesante, insomma, ma diciamo abbastanza circoscritta, ma questo non significa che quel fenomeno non si possa ripetere. Perché quel fenomeno si è determinato dal flusso di aria calda dal sud e il flusso d'aria fredda dal nord. Le Alpi non sono più ormai una barriera sufficiente a contenere questo fenomeno, e quindi, voglio dire, appunto, si è sviluppato una cosa che non conoscevamo. Questa cosa è diventata oggetto di dibattito sul futuro? Vi pare che le persone abbiano in qualche modo immaginato di dire: bene, proviamo a interrogarci sul nostro modo di vivere, sul nostro sistema di vita? Niente. Vado oltre. C'è un Papa. No, c'è ancora una cosa. C'è un Papa che ci dice che siamo dentro la terza guerra mondiale. Allora, la terza guerra mondiale non è un'affermazione da niente, è la terza guerra mondiale. Cosa si riferisce a Papa Francesco? Si riferisce forse al fatto che il mondo è attraversato da decine e decine di conflitti diventati ormai endemici? Quelli c'erano anche 10, 20, 30 anni fa. E allora dove sta l'elemento di novità che fa dire a Papa Francesco è in corso la terza guerra mondiale? Io credo che si riferisca al fatto che oggi è in gioco un conflitto globale in cui ciascuno di noi è arruolato, a partire dall'idea che il mio modo di vivere non è negoziabile. E siccome le risorse sul pianeta sono limitate, a fronte del limite delle risorse, il dire il mio stile di vita non è negoziabile significa una cosa sola: la fine dell'umanesimo. Anche questo, il fatto che il capo di una delle grandi religioni monoteiste del pianeta ti dica siamo nella terza guerra mondiale, dovrebbe, almeno per quanto riguarda i credenti, ma ripeto anche i non credenti, dovrebbe far saltare sulla sedia dalla preoccupazione di futuro. Sta cambiando qualcosa nel modo di essere delle persone? Se c'è una persona, voglio dire, in perfetta solitudine, non siamo soltanto noi, possiamo, no, è anche il Papa, che parla quasi al vuoto, vuol dire, perché non c'è. Allora io credo che bisogna davvero interrogarsi sul valore delle parole, sul significato delle parole, e provare in qualche modo anche a trarne delle conseguenze, insomma. E in questo senso, un ultimo richiamo lo faccio a quello che diceva la dottoressa Trevisan, riguarda la poesia. Perché dove la politica non riesce ad interpretare il tempo presente, la poesia viene in aiuto. Se c'è una persona che ha descritto in maniera straordinaria il contesto di questo tempo, si chiama Andrea Zanzotti, poeta morto 2 anni fa, il più grande poeta vivente italiano, che in Italia non si conosce, è più conosciuto all'estero che non in Italia, che nel corso dell'ultima intervista fatta, rilasciata alla RAI, di fronte alla domanda: ma come vede lei, con la sua ormai avanzata età, voglio dire, no, quello che sta accadendo intorno a noi, disse: per me è molto difficile descrivere quello che sta accadendo, però se volete un aforisma ve lo posso dire, e disse: in questo progresso scorsoio non so se vengo ingoiato o se ingoio. Io credo che dentro queste tre brevi frasi, in questo progresso scorsoio, già voglio dire, c'è già un concetto importante, non so se vengo ingoiato o se ingoio, c'è la descrizione del nostro tempo, nel quale si è contemporaneamente vittime e carnefici, perché ciascuno di noi è vittima e carnefice di quello che sta accadendo. Grazie per questo messaggio molto incoraggiante verso una speranza lontanissima. Tutto il tempo di parlare. No, grazie Michele per la tua passione. Infatti il libro sono 100 pagine, però si sente questa passione con cui Michele ha esposto il suo pensiero, lo troverete veramente in questa pagina qua. Per cui un libro, quando Mauro ci ha sottolineato, perché veramente mi ha preso molto. E nel libro ci sono naturalmente altre tante parole importanti, parole del conflitto, lavorare al conflitto, la memoria, così come il limite. Questa è la seconda domanda, poi apriamo magari la conversazione ai partecipanti. E mi sono interrogato, voi nell'ultima parte del libro cercavate, oltre alla descrizione, naturalmente l'analisi, avete cercato di indicare qualche traiettoria, insomma, no? Qualche indicazione. Questa è l'elaborazione partendo dal conflitto, come elaborare il conflitto, perché i conflitti, come dicevo prima, rimangono poi continuamente raccontati, trasmessi e ereditati passando da generazione in generazione. E quindi avete citato e laudato sì l'enciclica di Papa Francesco sui temi ambientali, quindi in cui parla anche di oltre la terza guerra, ma anche della cura della casa comune, accettare il limite, no? E quindi anziché la crescita infinita. Allora mi sono chiesto, ma chi sono i soggetti? Voi avete parlato, avete sottolineato in diversi passi le debolezze o anche la separazione, la scomparsa di luoghi di narrazione, di luoghi di aggregazione. Quindi quali sono i soggetti oggi? Perché Michele con un certo pessimismo si è chiesto, qualcuno si è interrogato di quello che è successo nelle valli alpine? Allora, quali sono i soggetti oggi, gli attori sociali, politici, oltre al poeta Zanzotto, che sono oggi qualificati, in grado di elaborare dei percorsi di trasformazione? Perché l'indicazione della data sì che ho letto, ho scritto anche un saggio sulla rivista francescana sulla data sì, però negli ultimi anni rimango sempre in difficoltà quando mi chiedono del sociologo quali sono gli attori che oggi possono, quelli che una volta, no, soggetti che presentavano stanze, diritti, emancipazione, oggi questi sono scomparsi. Ci sono i ragazzi che sognano Rolando. Quindi quali sono gli attori? Anzitutto, quali sono i luoghi per mettere in atto e fare compagnia a Papa Francesco? Quali sono i luoghi? Quali sono gli attori? E chi elabora la memoria poi? Questa è una domanda, poi cercate di rispondere in modo preciso, per favore. È una domanda non cattivella, ma chiaramente la più difficile, perché è la parte più anche più difficile del libro stesso, è stata quella di indicare anche degli elementi di uscita. Il libro precedente, ogni 10 anni ne facciamo, quindi non preoccupatevi, c'è tempo per il prossimo. Il libro precedente era un po' più facile su quello, perché ragionavamo proprio di una possibilità di, diciamo, anche lì andavamo a un'analisi critica di quella che era la cooperazione internazionale e in generale il fare solidarietà nel mondo, e però avevamo anche un'ipotesi concreta, una modalità. qui effettivamente il taglio del libro è diverso, appunto è più un discorso, però ci siamo preoccupati, ma vabbè, però come ne usciamo anche? E non è così facile. Diciamo che siamo andati però anche a dirci che non bisogna essere solo pessimisti, perché in realtà pratiche e luoghi che praticano modi diversi ci sono, esistono. Esistono nella contemporaneità e possono essere presi anche da pensieri magari eretici, magari minoritari, ma che nel Novecento c'erano. Il Novecento non era solo il tempo delle magnifiche sorti progressive, ma ci sono stati tanti pensieri, tanti tentativi di pratiche differenti. Se non altro, essendo a Bolzano, possiamo citare Alex Langer e il Lentius Profundius Suavius, per esempio. Così come oggi ci sono luoghi che praticano la lentezza, che praticano il dialogo nei quartieri, che praticano anche cose semplici, la cena di quartiere per rincontrarsi e abbattere i muri. Forse quello che serve è però portare queste tante pratiche anche a un pensiero sistemico, nel senso che affiancare il fare a un pensare complesso e interdipendente, che non è impossibile, perché dire che serve un pensiero complesso e interdipendente non vuol dire che non si può capire il mondo. Certo, è complicato, è difficile, bisogna riuscire a legare i fenomeni, ma davanti a cosa posso fare io davanti a una baraccopoli del Sud Italia, perché tra le tante novità, tra i tanti mutamenti, c'è anche il fatto che l'Italia è diventato un luogo di baraccopoli. Stime, non si sanno i numeri perché non c'è il censimento, ma ho visto le stime più prudenti parlano di 50.000 persone, quelle più ampie parlano di alcune centinaia di migliaia di persone che vivono per un po' di mesi all'anno in strutture. Quindi non è solo la Rosarno di turno, ma sono decine e decine di situazioni di questo tipo, sono città. E non è un fenomeno così casuale, o solo, tra l'altro non sono neanche illegali, o non la maggior parte. Sono persone legali che però per un periodo del loro lo passano in situazioni di vita indecente, in situazioni veramente pre-ottocentesche, senza acqua e senza luce. Okay. Davanti a un fenomeno così macroscopico devo pian piano costruire, a cui uno può solo dire o la ruspa, piazza pulita, via tutto, o non lo so cosa posso fare io a casa mia. Il lavoro paziente è quello di cucire quello con i pelati a 60 centesimi o a 6 centesimi, non so quanto siano arrivati al litro, nel supermercato sotto casa, perché quello è. Sono i pelati a sotto sconto e sotto costo nel supermercato sotto casa che li portano lì, perché quello è un dato strutturale, non è un caso, ma un'eccezione, è un dato strutturale su cui si fonda la nostra economia agricola. Allora, riuscire a costruirlo è dare anche una speranza e anche dare un poter affrontare un fenomeno così ampio, dentro cui ci sono le agromafie, dentro cui c'è il controllo del territorio, dentro cui c'è il controllo dei voti, dentro cui ci sono tante cose, c'è il principale mercato agricolo italiano è a Verona, non è che sia lontanissimo da noi, è lì che si determinano i prezzi, quindi Verona, non altrove. Il mercato sotto casa è sotto casa nostra, okay. Poi che sia controllato dalla camorra va bene, quindi però allora nego anche il tema di quello e lego anche il tema di una parte di quel pomodoro sottoprezzo che va esportato e va a distruggere ulteriormente. C'era una bellissima, che tra l'altro citiamo, un bellissimo racconto di Internazionale sul Ghana. Il Ghana negli anni 80-90 era uno dei principali produttori di pomodoro in tutta l'Africa. È arrivato il pomodoro sotto costo delle agromafie italiane ed europee, ha distrutto o combinato con le politiche internazionali della Banca Mondiale, per cui bisognava investire su tagliare il welfare, bisognava aprire i mercati, quindi hanno dovuto togliere le protezioni al mercato locale perché bisognava andare nel mondo e bisognava restituire i soldi del debito. Questi due fenomeni combinati hanno distrutto l'economia del pomodoro in Ghana, hanno fatto partire braccianti ghanesi che poi sono venuti nelle nostre campagne. Ecco, quindi noi uniamo la cooperazione internazionale, le mafie, l'ambiente, il consumo critico e diamo, è complicato, ma è, non so se ho risposto, ma diciamo, se vai a cercare i luoghi e le persone, luoghi e persone che si occupano di mafie, che si occupano di consumo critico, che si occupano di cooperazione internazionale, che si occupano di diritti dei lavori, ci sono. Forse bisogna riuscire a connettere che si occupano di sicurezza e insicurezza, che si occupano di intervenire nelle baraccopoli, che si occupano nelle nostre periferie di rifare la cena di quartiere, e ci sono. Lo sforzo forse è costruire una cornice che faccia stare insieme queste cose e che permetta di leggere i fenomeni nella loro complessità, e quindi davanti all'ennesima richiesta sicurezza non diano la risposta va bene allora telecamere, va bene allora ruspe, ma siano capaci di costruire un discorso che possa dire allora la risposta è qualcos'altro, è prendersi cura di chi vive in quella baraccopoli, prendersi cura di che cosa mangiamo nei nostri piatti, prendersi cura di che cosa viene in Ghana e del diritto internazionale piuttosto che degli scambi equi. Grazie Mauro. Prego. Prima ancora di ragionare delle cose di cui parlava Mauro ora, ovvero appunto delle buone pratiche che ci danno anche qualche briciolo di speranza per il futuro, bisogna in qualche modo anche avere una consapevolezza, secondo me. Ed è il fatto che una storia è finita, e quando finisce una storia bisogna farci i conti. E questo non è, come dire, il problema che hanno soltanto gli intellettuali. Perché la crisi della politica, che non è crisi solo dei partiti, ma è crisi di tutti i corpi intermedi, perché insomma lo dico da persona che dentro le associazioni ci ha vissuto per una vita, vuol dire le associazioni, come ogni altro corpo intermedio, vive delle stesse dinamiche dei piccoli o grandi partiti che siano. La crisi della politica, dicevo, è innanzitutto crisi di sguardo. Perché una storia è finita e fatichiamo a trovare le coordinate per un nuovo racconto. Questo, io credo, sia la grande questione che abbiamo di fronte. Siamo dentro il non più e il non ancora. Solo che questo lasso di tempo tra il non più e il non ancora sta durando ormai da 25 anni. Però non c'è dubbio, voglio dire, che potremmo datare, insomma, c'è recentemente un libro di Mauro Ceruti che parla di questo, in cui dice: noi abbiamo conosciuto la storia moderna, e la storia moderna è iniziata con la rivoluzione francese, quindi nel 1789, e si è conclusa nel 1989 con la caduta del muro di Berlino. Dentro quei 200 anni c'è stata, come dire, una storia che aveva i suoi paradigmi, era la storia del fuoco e del ferro, no? Era la storia, voglio dire, delle magnifiche sorti progressive e di tanti ideali, voglio dire, di tante culture che hanno cercato dentro quel perimetro di interpretare appunto un'idea di trasformazione, di cambiamento, di rivoluzione, eccetera, eccetera, eccetera. Quella storia, non la storia, ma quella storia, secondo me, è finita. Il problema appunto è quello di provare più rapidamente possibile a trovare quel cambio di pensiero, cambio di paradigmi, no? Che ci permetta di ricostruire piano piano un diverso racconto. Cosa vuol dire cambio di paradigmi? Siamo ancora convinti che l'idea dello sviluppo sia quella, voglio dire, che deve mutuare ogni nostro pensiero? Io credo di no. E credo che la cultura del limite sia una possibile risposta alla, come dire, idea dello sviluppo illimitato. L'idea dello Stato nazionale che ha informato tutti questi 200 anni è ancora la risposta nelle forme attraverso le quali le società, i gruppi organizzati riescono a, come dire, produrre delle modalità per abitare il presente? Io credo di no, perché di nazionale non c'è più niente, perché tutto è o territoriale o sovranazionale. E allora, voglio dire, il tema dell'Europa, dell'Europa a cui guardare, non l'Europa che c'è, ma l'Europa a cui guardare, potrebbe essere, come dire, quel cambio di paradigma. E potrei continuare, voglio dire, per dire tutte le cose che sono stati i pensieri forti, diciamo, dell'Ottocento, del Novecento, che oggi non funzionano più e che richiedono. Per cui il problema, secondo me, è non soltanto di sviluppare buone pratiche, ma di fare in modo che queste buone pratiche facciano i conti anche col cambio dei paradigmi. E quindi interrogarsi continuamente se queste cose in qualche modo possono immaginare anche scenari diversi. L'opposizione al neoliberismo non è la socializzazione dei mezzi di produzione o l'egualitarismo, perché se noi domani, ne parlavo prima con Fabio Bonafè, avvenisse il miracolo di avere a che fare improvvisamente per un impazzimento o per una come si può dire, ad un riavvedersi della coscienza globale, avessimo a che fare con una società egualitaria, noi ci troveremmo comunque davanti al fatto che noi viviamo al di sopra delle possibilità date dalla sostenibilità del pianeta. Perché noi il 1 agosto abbiamo già consumato tutto quello, voglio dire, che possiamo consumare. Allora, voglio dire, questo è il cambio di prospettiva che dovremmo, e dentro questo ci sta la paura, perché se non avviene il cambio di prospettiva, il problema sono quelli che ci minacciano dentro, come dire, la sicurezza che abbiamo. Guardate che in questo non c'è un arruolarsi oggettivo dentro la guerra di cui parla Papa Francesco. C'è un arruolarsi soggettivo. La gente sa di essere in guerra contro il prossimo. È un'affermazione forte che io faccio. Ma quando, voglio dire, appunto, le persone ti dicono prima noi, ti dicono esattamente questo. E io credo che tu questo dovremmo in qualche modo riflettere, perché se non diamo questa prospettiva di visione alle buone pratiche rischiano di essere la banalità del bene, perché non c'è soltanto la banalità del male, c'è anche la banalità del bene. Buono. Grazie Michele. Grazie tanto. E dunque, credo che sia Mauro che Michele hanno fornito molti elementi su cui sicuramente c'è bisogno di riflettere. Se ci sono altri contributi, considerazioni da parte vostra, quindi penso che sia Mauro che Michele saranno contenti ad interagire ancora. Prego. Posso? Sì, certo. Ah, ok. Troppa carne al fuoco, ovviamente, quindi bisogna essere molto... Non so, mi sentite? Sì, sono abbastanza forte. No, girati la scuola. Va bene. Allora, grazie per averci dato poesia. Io aggiungerei anche un po' di arti visive. In ogni caso, l'arte riesce a spiegare, sottolineare tante cose, no? E pur nella confusione attuale, soprattutto riesce a sottolineare la confusione attuale. Potrei citare Monatum o Gertz, Kentridge e compagnia, va bene. Prima cosa. Seconda cosa, poi viene anche la domanda. Seconda cosa, la notazione che non è un caso che in questo momento uno degli attacchi più forti che viene fatto non solo in Italia ma anche in Europa e negli Stati Uniti, non lo so, ma penso anche, è un attacco alla scuola, all'istruzione, all'insegnamento, no? Perché? Perché quello che diceva lei, la situazione del Ghana, eccetera, eccetera, essere informati su una situazione di questo tipo, ce ne potrebbero essere migliaia, presuppone leggere, presuppone studiare, presuppone essere informati, e la base di tutto la può dare solamente la scuola. E ripeto, non per niente io vedo un attacco incredibile nei confronti dell'insegnamento della scuola, non ultimo tutto questo dibattito tremendo sulla storia, l'insegnamento della storia della scuola. Passiamo alle parole, c'è un'altra parola secondo me molto importante, che è democrazia. Democrazia è uno dei più bei concetti che l'essere umano sia riuscito a creare, e è un concetto artificiale, per cui come tutti i concetti artificiali, no, ha bisogno di cura, ha bisogno di essere ramodernato, di essere bisogna farsi manutenzione, ecco, no? E questo è il discorso che facevate anche voi, no? E io sempre collegato alla sicurezza, alla democrazia. A questo punto qui, che possibilità ci sono di operare a livello democratico per questo cambiamento di paradigma di cui si parlava, quando la tendenza è quella della cessione di democrazia per paura, questa paura soprattutto indotta? Ecco, la domanda è questa, no? Come fare manutenzione in pratica, ecco. Grazie. Altre voci? Ah. Altre considerazioni? Ma mi ha colpito molto la parola arruolati, perché credo che indichi esattamente la nostra situazione. Abbiamo appena concluso, credo, la celebrazione dei 100 anni della Prima Guerra Mondiale, e mi viene in mente di dire, ben più della tragedia del Titanic che la precede, diciamo, che la cosa più evidente di quello che è avvenuto in Europa e poi successivamente nel resto del mondo era l'inadeguatezza delle classi dirigenti. Una mostruosa inadeguatezza, una mostruosa incapacità di vedere le cose, che naturalmente si collocava in un mondo dove le masse non contavano niente, dove le masse erano preformate al rinnegamento della propria vita, all'ubbidienza ciechissima, e quindi all'essere concime di altre tragedie. E questo io credo sia più o meno quello che sta succedendo anche oggi, nel senso che noi siamo arruolati in una cultura assolutamente inadeguata, incapace di vedere la realtà. Faccio solo due esempi, e naturalmente capisco anche la richiesta che Lorenzo ha fatto sul tema della scuola. Ma la scuola è depauperata in una maniera impressionante. Chi studia economia oggi nelle scuole superiori e all'università non sa un cavolo dell'economia mondiale, della realtà dell'economia, e rasenta normalmente l'inadeguatezza etica, il cinismo, e non sono formati solo in termini di competenza, ma anche in termini di disumanità. Questo è il problema, perché noi abbiamo una filiera gigantesca di solerti collaboratori dell'ingiustizia mondiale che non si pongono nessun problema. Chiudo e torno ai due esempi che volevo fare. C'è un rancore che parte da una ribellione al bombardamento di notizie rispetto alle quali noi siamo impotenti. Prima questione, ma sinceramente impotenti. Quando vediamo migliaia di persone che arrivano con i barconi, non vorremmo altro che ci fosse una persona che risolvesse il problema, ma rapidamente. Per quale motivo noi, mentre stiamo facendo la cena, dobbiamo essere incaricati della soluzione di queste emergenze? E un esempio chiarissimo, che potrebbe sembrare andare controcorrente, è la storia della ragazza di 16 anni, 15 anni, Greta, svedese, citata peraltro anche ultimamente da uno dei candidati alla segreteria del PD. Greta è una splendida icona dell'impotenza, non della potenza, ma dell'impotenza, apprezzata, pubblicizzata, ma è esattamente questo, è l'impotenza, e lei lo sottolinea quando si rivolge ai politici, con parole piuttosto dure. Chiudo facendo un ultimo esempio dell'assoluta inadeguatezza mondiale della politica. Le persone che vediamo, che sembrano molto serie, sono delle catastrofi, sono delle incapacità. Allora è venuta fuori l'ultima notizia, che forse qualcuno di voi avrà visto, che c'è una start-up di un milionario russo che vuole tappezzare il cielo di satelliti pubblicitari. E chi deve rispondere? Io mi alzo dal quartiere Otrisarco a dire: no, mi stai togliendo anche il cielo. Ti prenoti un satellite anche tu. Da bombardare. Grazie Fabio. Altre considerazioni, voci per incrementare la ricchezza di questo sono. No, parlo ad alta voce. Molto semplicemente, siamo messi male quando il presidente dell'America dice: quando c'è stato il freddo, per fortuna che c'è il riscaldamento globale. Dico, peggio di così, è il caso degli Stati Uniti. No, io volevo solo riallacciarmi alla sua parola inadeguatezza e alla tua democrazia. Ma allora come possiamo noi affidare a persone totalmente inadeguate l'essere rappresentati, cioè avere una vera democrazia? Noi siamo in una democrazia virtuale, ci passa tutto sopra la testa, anche il cosiddetto potere politico, che è un potere economico, non è più un potere politico. E allora che cosa dobbiamo fare? Va benissimo tutto quello che dice Mauro, il singolo deve fare le sue buone azioni, ma poi quando sopra la terra riallacciamoci un attimo ai Balcani, è una cosa che ho seguito molto da vicino, perché ho collaborato con Paolo Rumiz quando ho scritto La linea rossa di Mirtilli, no? Allora, ok, il rancore e tutto quanto, ma sopra di questo, sopra al loro progetto politico, ce n'era un altro ben diverso. C'era il progetto economico degli stati che volevano far attraversare la pipeline, lo sappiamo tutti, no? Arrivavano i carichi, insomma le navi cariche di armi e di quant'altro, eccetera. Voglio dire, cosa possiamo contro il potere economico noi? Grazie. Io parlo senza microfono. No, gli diamo due microfoni. No, la voce è abbastanza alta. Volevo identificare invece questa mancanza di soggettività dell'individuo, della solitudine del soggetto. E vedrei questa solitudine molte volte collegata a quei valori. Questa carenza di valori, questa mancanza della struttura scuola, della struttura famiglia, della struttura società, nel costruire dei valori portanti che una volta identificava l'individuo e ora non lo identifica più, per cui questa solitudine è una mancanza proprio di costruzione del sé in confronto all'alterità, che non si sa chi è perché non si può identificare la propria. E quindi non identificando la mia non riesco a identificare l'altra, e mi appare sconosciuta, e nel suo essere sconosciuto mi pongo delle paure, delle ansie, delle perplessità. Grazie. C'è un altro intervento? È stato fatto riferimento al, diciamo, al paradigma, alla struttura che vuole dire la cornice che fa da, che, da contorno in pratica al sistema socio-economico. Io mi chiedo semplicemente se c'è un'intenzione di cambiare la struttura. Dal mio modestissimo punto di vista vedo le frizioni fra gli Stati Uniti e le frizioni tra gli Stati Uniti e l'Iran, le frizioni comunque in Medio Oriente, nell'area del Donbass. A me sembra che non ci sia questa intenzione di voler mollare per ricostruire qualcosa di differente, ma di provare comunque a imporre l'impronta che fino adesso è stata imposta. In pratica il sistema che grazie. E io a questo punto lascio a voi a rispondere alle domande che mi sembrano più concernenti. Vado già? Sì. Beh, intanto grazie perché sono tutte quante le domande che si potrebbero tenere qui fino a per qualche giorno in realtà, sono parto da queste ultime osservazioni, nel senso che non c'è dubbio che quello che oggi sta accadendo avviene dentro il vecchio paradigma e quella è la cornice delle contraddizioni che noi vediamo a livello planetario proprio. Quindi io credo che i personaggi ai quali abbiamo guardato con un po' di speranza, penso a Sander, penso a Corbyn, no? Che hanno provato a rappresentare delle forme di opposizione al neoliberismo dominante, non andavano molto oltre l'impostazione keynesiana sostanzialmente. Quindi il tema del limite, tanto per dire, ma lo vediamo anche nel dibattito politico italiano, non viene posto. E questo, io credo, voglio dire, appunto, ci racconta proprio di questa cornice che ancora pervade il nostro tempo, insomma, e rispetto alla quale, appunto, siamo prigionieri, insomma. Il dibattito economico, insomma, sulla crisi, sulle crisi, eccetera, è tutto dentro quello, il vecchio orizzonte del prodotto interno lordo, insomma, non c'è dubbio. Certo, c'è qualche testimonianza diversa, ma anche però non arriva ad essere rappresentazione politica di un pensiero, insomma. In questo senso io credo che ci sia davvero un problema delle classi dirigenti, che poi in realtà è il problema di ciascuno di noi, perché la domanda la potremmo riformulare così: noi siamo adeguati? Ciascuno di noi è adeguato a descrivere quello che sta cambiando? Quando uscì un uomo senza qualità di Robert Musil, appunto in un passaggio d'epoca molto simile a quello che per alcuni versi almeno molto simile a quello che viviamo in questo momento, cioè nel passaggio tra la fine degli imperi, diciamo così, e il passaggio ai stati nazionali, alle democrazie moderne, c'era quello stesso vuoto, insomma. Leggere oggi l'uomo senza qualità pensando al presente è incredibile, e io credo che la chiave di quel libro che era l'idea dell'azione parallela, no? In qualche modo mi descriva anche un possibile scenario per il presente. Oggi io non credo che ci sia la possibilità di far emergere immediatamente un disegno altro rispetto a questo. Si tratta di costruire un'azione parallela di pensiero. Questo non significa essere indifferenti rispetto a chi vince le elezioni da una parte e dall'altra. Dico semplicemente che per poter in qualche modo costruire un'alternativa di sistema al vecchio sistema serve tempo. serve pensare, serve raccontare, serve capire quello che sta accadendo. La descrizione di quello che sta avvenendo non è una cosa banale, significa elaborare i conflitti. Appunto, nel lavoro che abbiamo fatto negli anni della guerra in Jugoslavia, abbiamo continuato a dirlo anche alle nostre associazioni: guardate, smettiamola con questa sega degli aiuti, scusatemi, no, ma proviamo in qualche modo a costruire ambiti di elaborazione del conflitto, senza i quali, come diceva James Hillman, il capo della psicanalisi americana, le guerre non finiscono mai. Ma poniamoci, non è solo un problema degli anni 90, interroghiamoci sul Novecento. Noi abbiamo appena appunto fatto le manifestazioni sul centenario della Prima Guerra Mondiale e sono state, come dire, forse anche quelle l'occasione per una riflessione su quello che hanno rappresentato appunto quella guerra, quei 7-8 milioni di morti, 21 milioni di persone ferite, eccetera eccetera. Abbiamo forse elaborato Auschwitz? Sorgono campi dappertutto, ogni cosa diventa un campo, e noi, voglio dire, dentro questa idea del sistema concentrazionario ci siamo ancora in pieno, no? Tant'è che il problema, basta che non vederli i profughi, voglio dire, il problema della soluzione del profugo che viene dal Mediterraneo è quello che non parta più nessuno. Quello che poi accade, voglio dire, in Libia o altrove, non importa, e noi siamo tutti contenti di non vedere, perché questa cosa ci disturba. L'elaborazione del conflitto è dolorosa. L'elaborazione del conflitto significa mettersi in gioco, e quindi richiede fatica. La fatica di dire: ma che responsabilità. Noi appunto siamo abituati a chiudere le guerre identificando la colpa criminale, ma la colpa politica e la colpa morale quand'è che la affrontiamo? Quella la mettiamo via? No? Non parlo di quella metafisica per cui uno risponde se è credente o non credente a Dio o a quello che, o a quello che immagina, insomma. Parlo della colpa politica e della colpa morale, perché non mi risulta che ci siano state dittature nel corso del Novecento che non sono diventate tali grazie ad un ampio sostegno popolare, no? Da una parte e dall'altra. No? E quindi, allora, il problema dell'elaborazione della storia, per questo che è importante non soltanto la formazione nella scuola, ma l'educazione permanente, mi viene da dire, perché non è che abbiamo, voglio dire, la cosa la risolviamo fino a quando abbiamo l'obbligo scolastico. C'è un problema continuamente, e però le nostre stesse associazioni, di fronte alla fatica di affrontare questi nodi, preferiscono i pacchi, preferiscono gli aiuti, oppure l'intervento di emergenza. Oggi l'associazione che va per la maggiore, non vorrei offendere nessuno, ma è Emergency. L'emergenza è un'altra cosa rispetto alla cooperazione internazionale e anche rispetto all'intervento dei conflitti, no? Ci vuole, voglio dire, elaborazione, ci vuole capacità, ci vuole mettersi in mezzo e costruire dialogo. Significa trovare i punti di incontro delle diverse narrazioni, ma questo è un lavoro faticoso e spesso, voglio dire, nemmeno riesci a portarlo a termine, perché tutto sommato l'adrenalina che ti dà l'essere parte di un racconto tu non la sai sostituire. Dobbiamo dircelo in maniera chiara che appunto dentro la banalità del male c'è anche la felicità della guerra, perché altrimenti facciamo finta di non vedere. Uno dice: ma tutti quanti abbiamo chiaro il fatto che la guerra è una cosa terribile, e però da che mondo è mondo, da quando esiste l'uomo sulla faccia della terra, vuol dire che la guerra è una componente permanente. Vorrà pur dire qualcosa. Il criminale sta dentro di noi, il problema è saperlo prendere, esserne consapevoli, saperlo prendere e, come dire, mitigarne gli effetti. Quindi è un lavoro, voglio dire, non soltanto che riguarda le persone alle quali, voglio dire, dare una fiducia dentro le elezioni. C'è qualcosa di più profondo che riguarda ciascuno di noi. E questa strada, voglio dire, è la strada appunto dell'educazione permanente, è la strada appunto che ci dovrebbe in qualche modo aiutare a essere almeno consapevoli, insomma, e di provare a uscire dalle banalizzazioni. Io sono presidente per 5 anni del Foro 31 per la pace dei diritti umani. Ho detto, non voglio più saperne di celebrazioni. Noi dobbiamo costruire percorsi che stupiscano. E allora, di fronte al tema dello scontro di civiltà, siamo andati a studiare le figure. La famiglia Rousseybert, famiglia che da 1000 anni gestisce il Santo Sepolcro. Lo status quo, la parola status quo, viene dalla gestione dei conflitti dentro il Santo Sepolcro. E da 1000 anni chi gestisce il conflitto dentro il Santo Sepolcro è una famiglia musulmana. I conflitti tra le diverse soggettività religiose che si riconoscono dentro, i cristiani quindi, che si riconoscono dentro il Santo Sepolcro, viene gestita da una famiglia musulmana. Pensate che straordinaria, voglio dire, immagine è questa per ragionare appunto di elaborazione dei conflitti. Ma chi lo sa? No? E quindi abbiamo invitato a Trento l'ultimo discendente di questa famiglia, che se voi andate al Santo Sepolcro trovate spesso seduto su una panchina, a vederlo non gli date due lire, ma come dire, lui è Vahier Nusseibeh, il quale, voglio dire, è quello che la mattina apre il portone di quella e che fa uscire una confessione religiosa perché ne possa entrare un'altra. Esperienze straordinarie di elaborazione quotidiana dei conflitti, per cui non è vero che non si può fare niente, no? O lo stesso vale, voglio dire, per che ne so, insomma, quanto si è discusso sulla questione della realizzazione delle moschee a Trento, a Bolzano, eccetera. Ma voi sapete che quando c'era l'impero austro-ungarico, sia a Trento che a Bolzano c'era la moschea? All'inizio del Novecento. E adesso fate tutta questa storia, il cattolicissimo impero austro-ungarico riconosceva 5 religioni ufficiali, una di queste era l'Islam, no? Perché dentro l'impero austro-ungarico c'erano anche, voglio dire, i sudditi bosniaci, e dunque, voglio dire, appunto, a maggioranza islamica. Storia cancellata, la storia dell'Europa. Le pagine più importanti della storia europea sono le pagine di Al-Andalus, perché tutto quello che noi sappiamo oggi lo dobbiamo al movimento di traduzione, che da Baghdad, da Damasco è arrivato a Baghdad, e da Baghdad è arrivato, voglio dire, a Cordova e in Andalusia, nel 700. E questa storia è durata per 700 anni e voi non la trovate dentro i libri di storia. Perché? Perché è scomodo, perché dà fastidio. Insomma, io credo che in questo il lavoro di conoscenza, il lavoro di elaborazione dei conflitti, il lavoro di sperimentazione di altri paradigmi oggi sia necessario tanto quanto le buone pratiche, no? Che però vanno innervate di questi concetti, perché altrimenti continuiamo, voglio dire, poi ci riduciamo a immaginare appunto che il problema sia di fare del bene, no? È meglio fare del bene che fare del male, sia chiaro, insomma. Però guardate che molto spesso dentro il fare del bene ci sta anche, si misura anche tanta ipocrisia e tanta carità pelosa. Grazie Michele, non hai risposto a tutte le domande comunque. Sei stato meraviglioso lo stesso. Mauro cerca di essere più didattico. Non so se risponderò anch'io alle stesse domande, perché in realtà volevo dire le stesse cose di Michele ribaltate dall'altra parte, nel senso che credo che per uscirne non ci siano risposte semplici, appunto, se c'è la complessità anche affrontare i temi sia complesso, ma mi ero segnato anch'io alcune parole chiave simili, vedendole magari dall'altra parte, appunto, la necessità di educazione permanente, cioè di studiare e leggere sempre e continuamente è una fatica necessaria. E se una delle ultime domande era: ma che volontà di cambiare c'è a livello globale? Perché appunto il potere economico spinge. Io la ribalto, l'ha già fatto anche Michele in qualche modo, ma che volontà c'è di cambiare anche a livello nostro? E le due cose sono, nel tempo dell'interdipendenza non c'è una differenza, una distanza. Il piano globale e il piano soggettivo individuale si rispecchiano. E tanto è doloroso a livello collettivo fare i conti con la storia, con la storia dei conflitti. Pensiamo così, al pasticcio, rispetto al pasticcio, alla difficoltà e forse anche ai passi indietro che abbiamo fatto rispetto al conflitto istriano-dalmata, con le ultime celebrazioni che ne hanno ridato una versione unilaterale in qualche modo. Mentre è fondamentale riprendere in mano la storia, appunto prenderne in mano in un modo consapevole, delicato e da tutti i punti di vista. Ecco, dicevo, com'è complicato a livello globale, così direi quanto vogliamo cambiare a livello individuale. Veniva citata Greta prima, che me l'ero segnata anch'io. Perché Greta è di nuovo un fenomeno, secondo me, complesso e multiforme e ambiguo, perché è dentro l'ambiguità però che ci sono le cose interessanti. Greta, credo che in questo momento è l'unica che è riuscita a portare a Bolzano 2.000-2.500 persone, 3.000, non so quanti fossero, in piazza. Sfido chiunque di qualunque cosa, forse tolto il solito Ronaldo, lasciamo stare lui, ma non so chi altri potrebbe portare in piazza oggi 2.000-3.000 persone, 3.000 ragazzi tra l'altro, perché non ci sono più neanche gli scioperi studenteschi contro questo o contro quello, non ci sono più. Greta ha portato 2.500 persone in piazza a Bolzano, auto-organizzate, perché non c'era alle spalle, sì, una consulta giovane, ma in realtà non c'erano pullman pagati. Mia figlia con le scuole medie sono andati in disapprovazione, non portati dalla scuola, ma in sciopero reale. Dopodiché è molto interessante, i cartelli tra l'altro anche molto interessanti se li leggevate, perché erano molto, molto, molto ficcanti. Ci state rubando il futuro. Dall'altra parte dico a mia figlia: benissimo, allora adesso con le tue compagne provate a ragionare sul cellulare. Perché dovete avere tutti un cellulare e ricaricarlo ogni sera? Qui naturalmente si va sul difficile, però nel mio caso la frego un po', perché io appunto ho lo smartphone da un mese per colpa della mia banca, ma continuo a usarlo solo per la banca, altrimenti lo uso come telefono. Però l'ho dovuto prendere perché la mia banca si rifiuta di farmi accedere al conto se non ho lo smartphone, quindi da un mese ce l'ho. Però voglio dire, con me aveva un po' di difficoltà a dire: ma anche tu fai lo stesso. Però mediamente temo che molti genitori sia facile rispondere: ma cosa fai tu? Appunto, con molti genitori è molto facile rispondere: cosa fai tu? Ed è vero. Però ecco, appunto, il discorso di Greta, visto. Ed è uno degli spazi, secondo me, di lavoro, questo del che cosa sei disposto a fare tu, cosa siamo disposti a fare noi, che non è solo individualismo, appunto. È necessario che sia connesso la dimensione individuale con la dimensione globale del pensiero. Non è che lo faccio perché Greta è un brand, Greta è anche diventato un brand, è un logo, quindi ovviamente c'è il pericolo. Però quanto è logo e quanto è studio delle questioni, quanto sei andata a leggerti che cosa dice Greta o che cosa c'è dietro Greta, è chiaro che le cose possono essere ambigue, però secondo me pur in un realismo pessimista, perché altro non può essere, ormai la commissione sul clima non dice più che il cambiamento è inarrestabile, quello ormai non l'ultimo incontro che hanno fatto proprio in rete, hanno dichiarato: non si ferma, al massimo si mitiga. Quindi se va bene, non arriviamo agli eccessi, perché c'è chi ragiona che nell'arco della nostra generazione non si potrà più vivere tutto l'anno in certe parti d'Italia, perché sarà troppo caldo. Se il cambiamento climatico è agli eccessi, 4-5 gradi, se riusciamo a mitigarlo, possiamo vivere ancora tutto l'anno in Italia, però dobbiamo mitigare, quindi appunto, il fermare i cambiamenti non se ne parla neanche, si parla al limite di, quindi questo è lo scenario, quindi non può essere che pessimista. Dentro il pessimismo cercare ragioni di, la parola ottimismo è difficile forse da dire, ma ragioni di su cui attaccarci, ragioni di vita, e in realtà ci sono ragioni di vita, ci sono nei quartieri quelli che organizzano le cene, e non è una banalità la cena di quartiere oggi. No, per niente. E comunque, guardate, a proposito di pessimismo e l'ottimismo, noi siamo talmente ottimisti che abbiamo intitolato le conclusioni di questo libricino Disincagliare le ali dell'angelo della storia. Più ottimisti di così. Bene, grazie Mauro e Michele, grazie a tutti voi, grazie alla Biblioteca Claudio Augusto che è qua presentata dalla dottoressa Trevisan. C'è anche un collaboratore, un pilastro delle Claudia Augusta, Fabio, e quindi spero i libri si sono fatti anche per essere comprati. I libri sono lì, con si compra tre, c'è uno, no. Niente, i libri sono disponibili a chi vuole, che è interessato. Secondo me è un libro molto agile, pieno di passione e soprattutto utile. Dio vi benedica, vi auguro buona serata e speriamo che la speranza sia sempre in nostra compagnia. Grazie.